Sono i miei giorni, sono i tuoi giorni, sono i miei giorni, sono i tuoi giorni. Quelli che vorrei che non finissero mai, quelli che al mattino sono solo di noi. Eppure non muoiono, eppure si incastrano, come due orizzonti che sa solo volare, lacrime che non sanno ancora nuotare. Eppure vanno via, col treno vanno via, col cuore vanno via, con l'amore di sempre, col bisogno di sempre, con l'affanno di sempre, fin da quando ti sento. Sono i miei giorni, sono i tuoi giorni, sono i miei giorni, sono i tuoi giorni. Quasi senza riparo, un'espressione per te, come un filo di grandine caduto su me. È un'attitudine, se poi ti immagino, come frutta fresca arrampicata sul muro, a raccogliere il sole da portare lontano, dove il silenzio, sai, parla da dentro, sai, e stelle e dita, sai, se il rumore che sento mi batta ad ogni momento, l'appartenenza è un incanto che fa conoscere il vento. Eppure non nascono soltanto in Irlanda quei musicisti con l'affanno nel cuore, quelli che sanno di tempesta e di rose quando il sole muore. Eppure non nascono soltanto in Irlanda quelle sottane che colorano le viole, quelle che tappano la forza e il dolore urlando contro il mare o contro il cielo. Yeah.